Zolt. Fulminati in azienda. Pacco, i conti non tornano. No, dottore, i conti sono giusti, perfetti. Pacco, non di fregnacce. T'ho detto che i conti non tornano, non tornano. Cos'è sto segno meno in fondo? Dottore, i conti torna, il segno meno significa che sti primi tre mesi dell'anno che avevamo venduto meno di quel che avevamo previsto. Eh no, caro il mio Pacco. Sto segno meno indica che si avvicina una catastrofe, perché se sul pezzo lo vede siamo morti. Dottore, la matematica però non è mica un'opinione. Allora, Pacco, ascolta, ho capito. Rifai i conti e fai in modo che il totale sia col segno più. Ma dottore, se due giorni e due notti che c'hanno i venditori, rifazzo i conti col computer, rifazzo i conti a man per sicurezza e sono sicuro allora, i conti sono giusti. Allora guarda, Pacco, prepara la valigia che sei licenziato. Ma come sarei? Sono stegista. Ecco, mo te lo spiego. Se abbiamo venduto al 30% meno, significa che le cose stanno a mettere male, giusto? Giusto. Ecco, seguimi, Pacco. E se le cose si mettono male, la crisi, il contenimento dei costi, eccetera, giusto? Sì. Qualcuno resterà a casa. Sì, dottor, ma cosa posso fare? Mira, scusi. E secondo te, se c'è la crisi, chi sono i primi a saltare? Gli stagisti, Pacco, te lo dico io. No. Ecco, e quindi mettiti a rifare i conti e falli finire col segno più, anche de poco, guarda, più 0,002, ma deve essere de segno più. Ma un imbroglio! Ma quale imbroglio, Pacco? Diciamo che è un piccolo lifting, una liposoluzione. Marta, senti, mi serve una mano. Ma certo, caro, in cosa posso aiutarti? Ecco, mi serve, diciamo, un piccolo lifting. Ma finalmente, ma sono anni che te lo dico. Ma bravo, ma bravo, tirerei un po' sugli zigomi, via quell'antiestetico doppio mento. Ma che c'entra, Marta? Ma che stai a dire? Ma conosco un chirurgo nippo thailandese bravissimo, sì, ci vanno tutti i vips. Ma quale chirurgo? Ma quale chirurgo, Marta? È lifting per il budget, intendevo, capito? Ah, per il meno 30. Non te fa sentire. Allora lo sai pure te. Certo. Se sul pezzo scopresti i numeri, ce li rifà lui connotati. A Marta mi serve una mano, vorrei presentargli ste nuove cifre, diciamo, in maniera creativa, capito? In modo tale che lui allora non se ne accorga. Capito, allora facciamo. Guarda, io ti consiglierei una presentazione dei dati con la colonna sonora di Rocky che evoca un senso di vittoria. Oh, poi mettiamo bello, i numeri rotanti sulle slide. Rotanti che tutto non si capisce sullo sfondo, niente. Diciamo, color prugna. Ecco, brava prugna, che poi tra l'altro è in linea con i numeri che quest'anno hanno fatto veramente, che allora, Pacco, siamo a posto? La fonte lavora sui numeri rotanti, su slide, cose, eccetera. E tu invece ce devi avere numero positivo, ce l'hai? Dottor, mi serve ancora due giorni, perché da meno 30 a più 0,002, almeno due giorni devo rimasinarli questi numeri. No, Pacco, due notti te scordi, due giorni e due notti sono troppi. Famo soltanto una notte, eh? Sì, ma il dottor sul pezzo voleva i numeri oggi, eh? E ho capito, però sta buono che stasera ho scoperto che sul pezzo va a trovare Katia Urlo. Domani sarà sfiancato, capito? Quindi deconcentrato. Perché sfiancato? Ah, Pacco, sfiancato. È sfiancato perché la Urlo abita lontano. Se vuoi saperne di più, www.zot.tv 3Z2O 1T.